Radio Maria e Radio Padania. Facendo il riferimento alle norme precedenti, risulta che sono solo loro due, che prendono i soldi sono solo loro due. Non è stata motivata perché è dentro nel maxi emendamento del governo sul quale è stata posta la fiducia. Sono 200 pagine, non se ne è accorto nessuno, cioè, sono circa 600 commi e quindi nessuno ha avuto il tempo materiale di leggerli. E poi anche leggendo non è che si capisce, man mano le cose saltano fuori leggendo e studiando il testo. Cioè, bisogna fare un percorso a ritroso cercando i vari riferimenti legislativi e da lì salta fuori. Che prendono i soldi sono solo loro due, è Radio Maria e Radio Padania.